La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, bentornati qui alla Quota Rosa. Oggi si parla di donne nella piccola editoria, di scrittrici che si cimentano con gli editori e molto spesso è difficile trovarli e invece si riesce attraverso i piccoli editori. A Roma, al Palazzo dei Congressi dell'Euro, durante questo ponte dell'Immacolata, c'è spazio per parlare di editoria al femminile. In particolare vi segnaliamo due incontri. Lunedì 8 dicembre alle 14, editoria al femminile, un modo diverso di fare libri, e poi domenica 7 dicembre alle 16, quando la rete femminile Donne e Nuove Tecnologie. Per parlare di questo noi abbiamo Ginevra Bompiani di Nottetempo, buongiorno. Buongiorno. Giovanni Peresson, responsabile ufficio studi Associazione Italiana Editori. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Francesca Panzarin, creatrice del sito web Womenomics, buongiorno. E buongiorno. Bianca Spadolini di Armando Editore, anche a lei un buongiorno. Buongiorno. Partiamo subito con Giovanni Peresson. Qual è il livello della piccola e media editoria in Italia? Quali sono i problemi? E le donne sono rappresentate in questo settore? Ma i problemi sono sicuramente tanti, a cominciare dalla problemi legati alla distribuzione, a un'insufficiente presenza dei tanti marchi che compongono la piccola editoria nelle librerie grandi e piccole, il problema delle resi, problemi finanziari, di sottocapitalizzazione, di difficoltà a partecipare ad attività che si svolgono all'estero dove acquisire diritti e via dicendo. Sicuramente queste sono delle difficoltà che si vanno ad aggiungere al problema che attraversa poi tutte le case editrici, grandi o piccole, del numero di lettori. Sicuramente però è questo il dato un po' di novità e di interesse legato alle due tavole rotonde che si svolgono a Più Libri, è quello di una maggiore presenza femminile all'interno dell'editoria in generale e in particolare della piccola e media casa editrice, cioè di quel tipo di imprese che storicamente hanno fatto della innovazione il loro cavallo di battaglia, il loro elemento distintivo, innovazione in termini di nuovi autori, di nuovi generi, di scoperte di nuove letterature, di nuovi linguaggi, vi dicevo, dove si riscontra una maggiore presenza femminile rispetto alla presenza che ci possono essere o in altri settori dell'industria o dei servizi o nella media delle stesse case editrici. Comunque io so e leggo dalle vostre statistiche che dagli anni 60 fino ad oggi il lettore più accanito è proprio la donna, cioè le donne sono le lettrici più accanite rispetto agli uomini. Lei mi ha dato dei dati che proprio nel 1988 si è registrato il sorpasso e oggi una donna su due, ma quasi il 70% delle bambine, è lettrice contro il 37,7% della popolazione maschile. Insomma, questo è un grandissimo successo della quota rosa, soprattutto la quota rosa nazionale, giusto? È giusto, certo. Il dato, questo è un altro dato che si muove in parallelo rispetto alla presenza di figure femminili nei ruoli dirigenziali delle case editrici, perché poi su questo che ci siamo concentrati, non tanto sulla presenza assoluta della quota femminile, che probabilmente è anche più alta, ma è anche più alta poi anche nelle librerie, come chiunque ha modo di frequentarle vede. Le librerie sono oggi fatte da direttrici di librerie e da libraie più che da librai. Questo della crescita del numero di lettrici è un fatto importante, perché se andiamo indietro alla metà degli anni 60 questo non era affatto vero. Gli uomini avevano una prevalenza rispetto alle elettrici. Quello che è avvenuto tra anni 70 e anni 80, dove le donne hanno cominciato prima un sorpasso e poi la creazione di questa distanza, che è una distanza enorme da un punto di vista sociale. Siamo a un 38% di lettori uomini contro un 50% di lettrici. Quindi... Insomma, è un bel successo. Allora, io la interrompo perché poi riparleremo con lei. Però subito volevo parlare con Ginevra Bompiani di Nottetempo, una casa editrice piccola, ma insomma oramai presente in tutto il territorio nazionale, per farle una domanda. Avete più scrittori uomini o scrittrici donne? Questa è una domanda a cui non mi ero preparata, nel senso che non ho contato, ma penso comunque che le scrittrici donne siano certamente in aumento nel nostro catalogo. All'inizio mi ricordo che dai primi titoli, guardando i nostri primi titoli, avevo constatato con un certo sgomento e stupore che avevamo solo scrittori uomini. Ho detto: ma com'è possibile? C'è qualcosa che non va, non abbiamo guardato bene. E questo era solo proprio i primissimi titoli. E in fondo eravamo partiti come partono tutti, guardando quello che è più visibile, cioè gli uomini, che è così. E da allora però le cose sono cambiate moltissimo e adesso abbiamo, io credo che soprattutto tra i nuovi scrittori italiani, direi che decisamente prevalgono le donne. Ecco, ma un'accusa che si fa, dottoressa Bompiani, è quello che la scrittura femminile si divida un po' in due categorie. La prima è una scrittura un po' appunto rosa, vale a dire stile romanzo d'appendice, strappa cuore, strappa lacrime, e che fa sì che ci siano delle scrittrici anche ad alto livello, tipo Danielle Steele, no? Barbara Cartland, però insomma che si indirizzino ad un pubblico femminile da soap opera o da telenovela. La seconda è che molto spesso le scrittrici non siano abbastanza graffianti. Ecco, si sta cambiando qualcosa? Veramente mi sembrano due categorie, come dire, viste tutte e due in negativo. La scrittura rosa vista come una scrittura punta bassa e l'altra come una scrittura non graffiante, cioè di nuovo una definizione negativa. Non mi pare proprio che sia così. In tutta la scrittura maschile o femminile esiste la scrittura bassa e la scrittura alta. Noi, devo dire, non ci interessiamo alla scrittura bassa e puntiamo... Abbiamo sempre puntato e continuiamo a puntare alla scrittura alta, ecco, molto leggibile ma alta. Ecco, questo, cioè intendo dire, da Virginia Woolf, no? Che è un po' la nostra eroina, o Sylvia Plath, ma anche Jane Austen, a Barbara Cartland, c'è una differenza anche a livello femminile. E la vostra casa editrice in che cosa è specializzata? Beh, appunto, in scrittura alta, di alta qualità letteraria, che però sia molto leggibile per una forza narrativa e per anche immediatezza di esperienza e di espressione. Io direi che la differenza forse è un'altra tra scrittura femminile e scrittura maschile, se veramente vogliamo farla, ed è che la scrittura femminile spesso è più diretta. Non dico che sia necessariamente memorialistica, anche se spesso lo è, ma è più direttamente espressiva, direttamente autobiografica. Questo succede... E secondo me è una qualità, intendiamoci, succede perché le donne hanno come dire, l'umiltà di aderire a se stesse, alla propria esperienza quando scrivono, prima di lanciarsi in immaginazioni spesso più commerciali che proprie. E di essere più coraggiose nel parlare di se stesse. Hanno il coraggio di parlare di sé e hanno il coraggio di raccontare la loro esperienza. Quindi lei mi sta dicendo, adesso la devo interrompere, sì, perché dobbiamo dare la linea alla regia, che gli uomini narrano delle storie altre, narrando anche se stessi ovviamente, mentre le donne narrano le proprie storie in prima persona, rischiando anche, perché vengono fuori, e vengono fuori le loro storie che fanno leggere appunto alle altre persone. Diciamo che aderiscono più coraggiosamente alla loro esperienza. La quota rosa. E ci ritroviamo a parlare della piccola e media editoria e delle donne scrittrici, delle donne lettrici. Ricordiamo, a Roma, durante questo ponte c'è la fiera della piccola e media editoria. Allora, Bianca Spadolini di Armando Editore, abbiamo sentito Ginevra Bompiani di Nottetempo, Giovanni Peresson, ci si ritrova nelle cose dette. Che cosa devono fare però di più le donne per emergere in questo campo? C'è da dire che la mia casa editrice è una casa soprattutto di saggistica, e l'aumento delle scrittrici femminili in questo genere è naturalmente incredibilmente alto. Ma questo perché l'occupazione delle donne in ambiti culturali, quali cattedre universitarie o in settori manageriali estremamente interessanti, importanti, è piuttosto recente, e comunque certamente la mia casa editrice sta osservando un ampliamento abbastanza esponenziale per ciò che riguarda la produzione al femminile di saggistica. Posso dire che, per ciò che ha detto la Bompiani, molto interessante questo aspetto, è vero, della donna che ha capacità di mettersi in collegamento diretto con il lettore. Le nostre collane, che sono soprattutto quelle di psicologia e di pedagogia e di filosofia, ma anche collane, diciamo, di testimonianze, che forse sono quelle ultime che sono cresciute ultimamente e che prendono in considerazione soprattutto spaccati di vita al femminile, ecco, queste collane hanno visto una crescita abbastanza interessante di donne, di autrici femminili. Lei dice la saggistica con determinati argomenti, per esempio psicologia e sociologia, oppure anche storia, insomma, economia, ecco, perché per esempio il campo economico, la saggistica è appannaggio maschile, sì, diciamolo, no? Sì, sì, quindi sì, ci sono dei campi specifici in cui la femminilità gioca un ruolo a favore. Che sono la psicologia, la sociologia, la pedagogia. E la pedagogia. La pedagogia lo è stata da sempre, ma non da un punto di vista teorico, però, delle teorie. Oggi le donne sono entrate anche nell'ambito del pensiero, quindi delle teorie. Fino a ieri erano coloro che davano le ricette in qualche maniera, che quindi esprimevano e riproducevano in maniera divulgativa quelle che erano le teorie comunque espresse sempre dal pensiero maschile. Quindi c'è sempre questa divisione però tra mondo matematico, razionale, maschile, e mondo invece inconscio, femminile? E in una qualche maniera purtroppo devo dire di sì. Quindi questo ancora non l'abbiamo scavalcato. Non l'abbiamo scavalcato. E la presenza del femminile comunque è una presenza che sta facendo degli sforzi enormi proprio per chiarire, creare un quadro di genere che sia interessante, ecco, e che abbia un suo aggancio reale. E su questo devo dire che le donne stanno producendo in maniera proficua. Francesca Panzarin, creatrice del sito web Womenomics, quando la rete femminile, donne e nuove tecnologie. Allora, abbiamo parlato con Bianca Spadolini, lei ci dice invece un'altra cosa, perché Womenomics sa molto di Women and Economics, giusto? Esatto, sì. La definizione di womenomics, diciamo, è un termine che è stato coniato dagli economisti inglesi, è uscito alla ribalta un paio di anni fa con un articolo dell'Economist, che descrive la teoria per cui il lavoro delle donne è una leva per la crescita e lo sviluppo del paese, cioè senza un maggior apporto della produzione della ricchezza delle donne l'economia non cresce abbastanza. Avevo letto questo articolo, mi era piaciuto e quindi ho pensato di unire, diciamo, una specie di perfezionare la mia volontà di conoscere la tecnologia, e in questi casi se non fai impari, cioè se fai impari di più, con la voglia un po' di sperimentarsi e confrontarmi con una tematica che mi era cara come donna e mi era vicina come donna che lavora. Ho costruito quindi questo sistema online, che è costituito da un sito che è www.womenomics.it, che è pensato come una specie, diciamo, di repertorio di informazioni, di documentazione sull'argomento in Italia, e collegato a questo c'è anche un blog che è womenomics-italy.blogspot.com, che è invece il luogo per l'occasione di dibattito, di riflessioni a confronto, ecco. Quindi sono due strumenti legati all'elemento della presenza sempre più forte delle donne nell'economia e nel lavoro. Ma ci sarà un giorno in cui noi leggeremo una teoria economica a firma di una donna? Ma devo dire, riguardo a questi argomenti, in Italia è molto studiato, soprattutto sto pensando a livello di economia, in Bocconi, e soprattutto nella letteratura internazionale tutte le teoriche, giornaliste che scrivono di questi argomenti appunto sono soprattutto donne. Ce n'è un libro che è piuttosto famoso, che ha un titolo anche abbastanza forte, che è Why Women Means Business, della Wiley, è una casa editrice inglese, dove appunto ci sono due giornaliste, anzi una giornalista e un economista, che si mettono insieme e spiegano in modo anche abbastanza friendly questi concetti. Giovanni Peresson, responsabile ufficio studi Associazione Italiana Editori, parlando invece della piccola editoria, quali sono i problemi maggiori, la distribuzione, questi libri non arrivano nelle librerie, è difficilissimo trovarli, quanto poi è proficuo per uno scrittore affacciarsi all'editoria con una piccola casa editrice? La principale difficoltà oggi della piccola editoria è quella, accennavo all'inizio, è quello di avere un accesso ai canali di vendita, che poi vuol dire un accesso poi ai suoi lettori o sempre più poi alle sue lettrici, come stiamo dicendo in questa trasmissione. Certamente in parte oggi le nuove tecnologie, internet, dove anche qui vediamo un processo, non so se di femminilizzazione, ma comunque dove vediamo che anche qui le donne si sta soprattutto nelle fasce giovanili, stanno in qualche modo affiancando negli utilizzi di internet, del computer, la parte maschile. Le nuove tecnologie sono sempre state e lo sono ancora nella loro complessità un universo maschile, però anche qui ci sono appunto dei segni di cambiamento che vanno nella direzione che dicevo. La distribuzione resta comunque il principale problema, nonostante le nuove tecnologie, resta un problema perché la libreria, in qualche modo, che è il principale canale di vendita dei libri e dei libri dei piccoli editori, sempre più deve confrontarsi con problemi di natura economica, l'aumento degli affitti e dei valori immobiliari nei centri storici, lo spostamento delle librerie verso i multistore o le librerie dei centri commerciali, che funzionano su logiche molto diverse rispetto a quelle della libreria tradizionale, dove il pubblico della piccola editoria è abituato a trovare i propri editori e poi i propri autori. I piccoli editori che garanzie danno a queste giovani leve? La garanzia di un progetto editoriale coerente e di una capacità di seguire l'autore nella sua crescita di scrittura, e non immaginiamo sempre solo l'autore come autore di narrativa, ma immaginiamo l'autore e l'autrice anche di libri dove che vengono scritti in un stretto rapporto con la redazione della casa editrice, spesso dove la redazione è piccola, dove c'è un rapporto diretto, questa capacità di far crescere l'autore di saggistica piuttosto che di manuali, piuttosto che di tutta quella produzione che non è strettamente una produzione narrativa, è a mio parere maggiore nella piccola editoria, dove c'è una maggiore attenzione alla qualità e al rapporto che si instaura da una parte con l'autore, con le persone, dall'altra poi con il libraio e con i canali di vendita, o con alcuni librai e con alcune tipologie di librerie. Ginevra Bompiani di Nottetempo, un modo anche di far conoscere i piccoli editori sono le librerie caffè. Certamente. Beh, le librerie caffè sono anche un modo per far sopravvivere le librerie indipendenti, diciamo la verità. Purtroppo il libro che a tutti noi penso appare come un genere assolutamente necessario, indispensabile, non appare così in generale. Bisogna affiancargli appunto dei caffè, delle bibite, dei gadget, una serie di cose. Comunque bisogna che la gente si nutra fisicamente per decidersi a nutrirsi spiritualmente, me ne sembra che sia così. Le librerie caffè quindi sono dei luoghi che accolgono libri e accolgono anche presentazioni, dando in più la possibilità di bere, di fare quella vita sociale che si fa nei caffè. La quota rosa. E torniamo a parlare di editoria, abbiamo con noi Ginevra Bompiani di Nottetempo. Allora, qual è stato un best seller della sua casa editrice, che è una casa editrice media, la definiremo così? Quante copie ha venduto, il libro che ha venduto di più di tutti? Il libro che ha venduto di più di tutti, penso che si sappia, è Mal di pietre di Milinagus. Ha venduto circa 130-140 mila copie e lo stiamo per ristampare. Che cosa ha decretato questo successo? A parte, immagino, la bellezza del libro. Di che cosa parla questo libro? Questo è un romanzo di una vera scrittrice che ha una sua voce molto, molto personale, molto, molto sua, molto calda e immaginativa, che racconta la storia di un amore, tra la nonna della voce narrante. Cioè la voce narrante racconta questo, ritrova delle lettere, dei ricordi, questa nonna che dopo essersi sposata anche tardivamente, finalmente incontra l'amore, con un altro uomo naturalamente, e la descrizione di questo amore con un colpo di scena finale veramente stupefacente. Ed è una storia che è raccontata anche in un modo abbastanza piano, ma veramente con molto colore, con molta luce, con molta forza, anche forza trasgressiva, spesso con una presenza del paesaggio sardo fortissima, con una lingua molto ricca e piena. Questo libro però, che ha tutte queste meravigliose qualità, in Italia era passato inosservato. Ecco, arrivare per una casa editrice come la vostra a 130.000 copie è stato un bellissimo successo, anche perché è un successo già per una grandissima casa editrice. E quali sono state le difficoltà come piccola editoria? Beh, in realtà questo libro, che era già uscito in Italia e del resto era il secondo libro della stessa autrice, non era stato recensito, era stato molto apprezzato, ma non recensito perché piccola casa editrice, scrittrice sconosciuta in Italia, si lascia stare, non si recensisce, non si prende in considerazione. In Francia questo non succede, per cui lo stesso libro tradotto in francese, pubblicato 3 mesi dopo in Francia, da una piccola casa editrice, quindi di nuovo piccola casa editrice e scrittrice sconosciutissima e straniera, il giorno in cui è uscito tutti i giornali francesi ne hanno parlato, le librerie l'hanno messo sui tavoli, ha cominciato è partito subito molto forte, e siccome un mese dopo, qualche settimana dopo, c'era il Salone del Libro di Parigi, è stato il libro trionfatore del Salone di Parigi. Questa notizia è rimbalzata in Italia, i critici che l'avevano messo da parte si sono ricordati che in fondo quel libro l'avevano letto e gli era anche piaciuto e hanno cominciato a parlarne, e quindi lo stesso fenomeno si è riprodotto in Italia. Quindi, come al solito, in Italia non si riesce ad apprezzare il nuovo, bisogna che ce lo faccia apprezzare, esatto, un'altra bisogna nazione. Bisogna che venga da fuori. Bisogna che venga, anche perché, no, si dice sempre che questo paese è statico, ma se poi siamo noi stessi a frenarci, in questo caso i critici, poi è difficile che vengano fuori. Perché insomma, sì. È proprio un pochino un'attenzione tutta posta altrove. Adesso il desiderio incrociato, cioè una cosa è desiderabile quando la desidera qualcun altro. Certo. Adesso avete in mente di lanciare qualche nuova scrittrice? In questo momento è uscito da poco il libro di Gloria Origi, che è un'altra scrittrice non conosciuta in Italia, il suo primo libro di narrativa, lei è una filosofa, la figlia della Gallina Nera, che sta avendo molto successo. Abbiamo in 3 settimane abbiamo fatto 3 ristampe e sta andando, ha avuto lei devo dire subito un'attenzione da parte dei critici molto, molto grande, molto lusinghiera, e siamo appunto molto contenti perché è un altro libro che sta partendo felicemente. Allora, sentiamo invece Bianca Spadolini di Armando Editore, lei fa saggistica, un saggio, magari un saggio scritto da una donna, visto che la nostra trasmissione è parzialissima nei confronti delle donne. Qual è stato il libro che ha venduto di più, qual è stato il vostro successo editoriale e soprattutto quali sono state le difficoltà? Quel successo lì per noi è impossibile. Beh, la saggistica vende sempre meno, no? Certamente, di gran lunga. Comunque abbiamo un libro per noi molto, che è stato molto interessante e in fondo anche una scoperta, ed è però un testo scritto da un'antropologa, Marilena Maffei, che si intitola La danza delle streghe, e lo stiamo ristampando, le nostre tirature sono basse, quindi lo stiamo ristampando per la terza volta, e per noi questo è un grosso successo. E devo dire che il successo l'ho avuto non soltanto parlando questo libro di streghe naturalmente e quindi di narrazioni mitiche ovviamente legate alle streghe, ma streghe buone in questo caso, nei miti delle isole Eolie, dentro le quali l'autrice è andata ad raccogliere racconti e credenze, e devo dire che lo vendiamo molto bene anche nel nord, quindi c'è un interesse evidentemente su questi argomenti e sono contenta perché le scienze etnoantropologiche in Italia in qualche maniera erano un po' scese, diciamo, come attenzione. E avere un successo di questo genere laddove non c'è solo l'adozione universitaria, ma c'è invece l'attenzione di un pubblico più vasto, ci rende naturalmente orgogliosi in questo senso. Francesca Panzarin, creatrice del sito web Womenomics, quali possibilità ci sono per delle donne per scrivere sul vostro sito? Che cosa pubblicate? Di cosa si tratta? Allora, apro e chiudo solo una parentesi dicendo che sono anche una grande ammiratrice dello stile delicato di Milena Agus, per cui consiglio vivamente la lettura. Allora, sul nostro sito, in realtà diciamo che sulla rete non c'è problema se sei maschio o se sei femmina, nel senso che, tra l'altro, leggendo anche proprio gli studi e i dati dell'AIE, dell'Osservatorio Digitale, in realtà adesso le donne sono sempre più presenti, come ci sono più heavy reader tra le donne per quanto riguarda la lettura, anche gli user sono sempre più donne, per cui lo spazio web ha la possibilità, ha la caratteristica di essere uno spazio aperto, quindi voglio dire tutti possono entrare e possono dire la loro, anzi secondo me proprio l'elemento femminile è presente in rete e alle donne piace la rete perché è uno spazio di dialogo aperto. Ma di che cosa parlate? di tutti gli argomenti che riguardano la sfera femminile, per cui sicuramente il titolo riguarda, diciamo, le donne, il lavoro e l'economia, ma poi si parla di politica, ci sono spunti di cultura, di società, quindi un argomento un po' un universo a 360 gradi di tutto quello che sono le donne oggi. Uno spunto che l'ha fatta riflettere in quest'ultimo tempo, che le ha dato una persona che ha visitato il suo sito? Ma per esempio l'ultimo post che abbiamo scritto proprio ieri sera sullo stimolo di una chiacchierata che avevamo fatto con una lettrice, era, il titolo è Dal glass ceiling al glass cliff. Il glass ceiling è questo tetto di cristallo che rappresenta un po', è una metafora che rappresenta un po' il tappo, diciamo, che si trovano le donne spesso quando si trovano nel mondo del lavoro. E adesso in realtà si parla più di glass cliff, cioè della, diciamo, tendenza delle donne a mettersi in posizioni e assumere dei ruoli piuttosto rischiosi. Penso anche alle altre persone che hanno partecipato a questo dibattito radiofonico, quindi che affrontano e hanno il coraggio di affrontare delle situazioni piuttosto rischiose e imprenditoriali, ma nonostante tutto vuol dire vanno avanti, ecco. Allora, una domanda al volo per tutti quanti i nostri ospiti prima di chiudere, la scrittrice preferita, Giovanni Peresson. Passa la parola, non le viene in mente nulla? Non le viene in mente nessuna. Ginevra Bompiani. Beh, Anna Maria Ortese. Allora, Bianca Spadolini, la scrittrice preferita? Beh, Elsa Morante, senza dubbio. E quindi il libro preferito è la storia. La storia cioè andiamo diciamo così sul classico. Francesca Panzarin. Ma pensando a un luogo tutto per sé, sicuramente Virginia Woolf. Pensando appunto a uno spazio di riflessione, di confronto interiore, è sicuramente il libro che, devo dire, nella mia storia di lettrice onnivora mi ha segnato molto. Una stanza tutta per sé. Una stanza tutta per sé. Ecco, io sono un po' parziale riguardo a Virginia Woolf. La reputo la più grande scrittrice, la più grande narratrice di tutti i tempi, di uomini e di donne. Giovanni Peresson, magari ci ha pensato, gli è venuto in mente qualcosa? Siamo, come dire, nelle letture giovanile dell'università, certo Virginia Woolf rimane comunque una delle scrittrici comunque di riferimento poi di questa editoria. No, stavo in realtà pensando se mi veniva in mente una scrittrice più recente che mi avesse colpito nella stessa misura rispetto alle letture fatte nell'età dell'università, insomma, questo è il senso. Il senso del suo, sì, certo. Però abbiamo sentito invece Ginevra Bompiani che ci ha parlato di queste nuove scrittrici, ma anche molto importanti. Poi, come non ricordare recentemente la scrittrice dell'Eleganza del Riccio. La quota rosa. Donne al volante, pericolo costante. Questa era un po' una battuta che si faceva un tempo, sessista assolutamente, sì. Però noi vogliamo parlare proprio di donne al volante, ma questa volta un volante un po' diverso. C'è un sito www.donnealvolante.it. Non vi spaventate, lo ha ideato la deputata del PD Alessia Mosca, che si trova in commissione lavoro. E di che cosa si occupa questo sito? Nel sito vogliamo raccogliere tutte le esperienze che stiamo cercando di recuperare in questo viaggio, perché poi il sottotitolo di Donne al Volante di questo progetto è Viaggio in Italia. Sono tutte delle esperienze di donne che a diversi livelli lavorano per capire quali sono le migliori prassi oppure quali sono le situazioni di maggiore disagio, perché le risposte che chi ha degli impegni a livello istituzionale, a tutti i livelli, a partire dal livello parlamentare del quale io faccio parte, ma anche a livelli delle amministrazioni locali, le regioni, i comuni stessi, per vedere appunto quali possono essere le migliori risposte per incentivare quanto più possibile l'occupazione femminile, che, come sappiamo, ahimè, è una nota dolente per il nostro paese. E quindi donne al volante dell'occupazione. donne al volante dell'occupazione, ma significa anche donne al volante a tutti i livelli, e perciò è importante perché l'occupazione femminile cresca che le donne assumano il volante delle attività stesse, quindi anche i percorsi di carriera, i percorsi di leadership, il rafforzamento delle donne nei luoghi decisionali, perché da donne possano poi consentire un ambiente di lavoro che possa essere più adeguato per far crescere l'occupazione poi a tutti gli altri livelli. Io leggo sul suo sito, molto carino per il resto, perché è molto glamour, con questa donna, con questi occhiali, stilizzato, sembra quasi di aprire un sito tra Sophie Kinsella e Sex and the City. Esatto, abbiamo voluto proprio un po' giocare sull'ironia del titolo, perché titolo è stato proprio pensato perché le donne sono sempre indicate come poco autoironiche, invece abbiamo proprio cercato di giocare su questo concetto. E quindi leggo: il blog nasce con l'obiettivo di raccontare in presa diretta e attraverso le testimonianze delle protagoniste le tappe del viaggio in Italia dedicato al tema dell'occupazione femminile. Vedo che avete moltissimi incontri a partire dal 15 dicembre in Emilia-Romagna, a Bergamo il 12 dicembre, in Brianza, giusto? In Brianza abbiamo molte tappe, non solo perché io sono brianzola e quindi è un territorio che conosco molto bene, ma perché la Brianza ha questa caratteristica: è il territorio in tutta Italia con l'occupazione femminile più alta e con un tasso di imprenditoria femminile che cresce 8 volte di più rispetto alla media italiana. Quindi lì sicuramente possiamo trovare delle buone prassi e abbiamo pensato quindi di concentrarci su quel territorio per vedere se quel modello può essere esportato in altri territori che invece soffrono una situazione più difficile. Però il 18 sto anche in Calabria. E quindi noi speriamo che la Brianza potrà suggerire qualcosa alla Calabria. Esatto, l'idea del blog è quello dello scambio, dell'ascolto, dello scambio, della raccolta di esperienze per vedere se ci può essere un mutuo aiuto da regioni, ma magari in realtà ci possono essere delle buone esperienze in Calabria che possono essere anche utilizzate in altri territori che apparentemente si trovano in una condizione migliore. Lei come deputata del PD, noi non abbiamo una controparte perché abbiamo preferito prendere un attimo, dare la parola a un'imprenditrice. Come deputata del PD in Commissione Lavoro ha pubblicizzato questo sito anche con le deputate della maggioranza? Sì, ma non solo, io in realtà su questo tema con le deputate della maggioranza sto lavorando perché a livello parlamentare possano essere prese delle iniziative che vadano in questa direzione, e quindi il sito e il viaggio in Italia servirà anche per rendere note, pubblicizzare e fare in modo che ci sia un confronto sulle iniziative che stiamo promuovendo a livello parlamentare, e lo stiamo facendo anche in modo trasversale. Proprio la scorsa settimana è stata approvata in Commissione Lavoro una risoluzione a prima firma mia, ma firmata da molte deputate e anche deputati della maggioranza, nella quale si chiedeva che ci fosse una equa rappresentanza nei consigli di amministrazione di nomina governativa e quindi che fossero selezionati anche nominativi di donne. Questo è un esempio concreto, ma poi in realtà stiamo lavorando anche su alcune iniziative chiaramente condivise. Io faccio parte di questo intergruppo sussidiarietà con il quale, che è ovviamente anche questo un gruppo trasversale, e abbiamo deciso proprio in questi giorni di lavorare sul tema dell'occupazione femminile, e lo stiamo facendo insieme ad alcune deputate della maggioranza. Quindi stiamo veramente cercando di trovare un consenso. C'è accordo. Eleonora Polini, imprenditrice, 33 anni, di quale azienda imprenditrice, di che cosa si occupa, una imprenditrice in un campo maschile, in un campo femminile? Sono imprenditrice in un campo, presumo, più maschile forse che femminile, perché la mia attività è ubicata ad Arcore e gestisce servizi per le aziende, servizi che vanno dalla ristorazione alla vigilanza, al centro medico, sia servizi proprio di impianti e manutenzione, quindi più prettamente forse legati all'ambito maschile. Lei è coinvolta in questo progetto, 33 anni, come ce l'ha fatta? Diciamo, che studi ha fatto pure? Sì, è stata una sfida che non posso dire di aver vinto assolutamente, ma che combatto quotidianamente, perché mi sono trovata nell'ambiente lavorativo a 25 anni perché mio padre purtroppo era venuto a mancare. Mi sono laureata in architettura lavorando e studiando parallelamente con grossa difficoltà, però era una soddisfazione personale che volevo sia per l'azienda che proprio per me stessa portare a termine. Quindi lei ha preso in mano le redini dell'azienda di famiglia? Esatto, unitamente a mia sorella, siamo in due, l'azienda consta di una trentina di persone, quindi abbastanza variegata nella molteplicità delle attività lavorative e anche ovviamente delle problematiche quotidiane che ci troviamo ad affrontare. Perché ha deciso di partecipare a Donne al Volante? Ho deciso di partecipare a Donne al Volante perché l'ho trovata un'iniziativa sicuramente lodevole e degna di essere supportata, perché dà voce a quella che è l'attività della donna all'interno dell'ambito lavorativo. All'interno della mia azienda ho un grandissimo numero, una grossa componente femminile, e proprio come raccontavo durante la mia partecipazione al lunedì sera all'evento che è stato tenuto a Monza alla Camera di Commercio, in questo periodo stiamo affrontando la conciliazione della maternità di 5 persone all'interno della mia azienda, che devo dire con estrema responsabilità da parte delle lavoratrici che si sono assentate per maternità e anche delle colleghe e dei colleghi, abbiamo gestito in maniera, oserei dire, abbastanza ottimale, supportati anche dal fatto che la nostra azienda un paio di anni fa ha aperto un asilo nido all'interno del comparto industriale, per cui le lavoratrici possono anche portare il loro figlio all'interno della struttura, peraltro realizzata tutta in bioarchitettura. Allora, un ottimo esempio, noi speriamo che siano sempre di più le aziende che possono, compatibilmente ovviamente con i conti aziendali, aprire un asilo nido all'interno dell'azienda stessa. Alessia Mosca, qual è il suo obiettivo con Donne al Volante? Ma l'obiettivo è quello di intanto sensibilizzare quanto più possibile tutti coloro che hanno delle responsabilità sia nel privato, nelle aziende che ai livelli istituzionali, perché riteniamo che questo dell'occupazione femminile non sia un tema solo di rivendicazione di diritti e di pari opportunità, a tutti sue giustificazioni e la sua nobiltà in quanto tale come battaglia, però riteniamo che ci sia anche una questione meramente economica e di convenienza per l'intero paese, perché se le donne lavorano, c'è questo dato veramente interessante, se le donne lavorassero alla stessa percentuale degli uomini, il nostro paese avrebbe un balzo di 17 punti nella produzione della propria ricchezza interna, quindi diciamo che questo ovviamente non può lasciare indifferenti chiunque abbia a cuore il benessere del paese. Peraltro ci sono studi che dicono che la presenza delle donne in azienda nei luoghi decisionali delle aziende fa crescere la produttività e fa crescere anche la qualità lavorativa, perché non si tratta poi solo di questioni di mera ricchezza, ma anche di benessere complessivo che coinvolge anche la qualità della vita, dei tempi, e quindi riteniamo che un aumento complessivo delle donne nel mondo del lavoro possa essere un beneficio di cui possono usufruire poi tutti, donne, uomini. E allora diciamo così, noi chiuderemo dicendo: Donne al Volante, ricchezza costante, questa volta non più pericolo costante. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia, Gloria Guerrera in redazione, vi ricordo che ci potete scrivere al sito laquotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.